ora in onda. Ciao Edi. Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone. One. Buonasera, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Piazza Alta, simpatici amici. Questa è Radio F e qualcuno aspetta che mi venga acceso il microfono. Quanto mi siete finalmente mancati. Tra noi. Ben ritrovato, finalmente tra noi. Enzino. Ero lontano, ma dopo due settimane ci avevamo fatto quasi la bocca. E invece sono tornato a fare autogestione. Ma invece Enzo sono tornato. È tra noi. Bene, ma sì, vi siete mancati. Vi sono... Sai che Marzi ha pianto tanto la volta scorsa. Sì, so. Quando mi ha detto che tornava in tempo per la puntata. Tutti, però tutti. Ma bando alle ciance. Banda alle ciance, andiamo con la 17ª puntata. Mica 16, eh? Contorni colorati, fumano nel cielo più blu, dove la parola pace nella mente dei più. Penisola fatta di sole e mare, terra che in ogni momento è sempre pronta ad amare. Hey yeah, amare, hey yeah, amare, hey yeah, amare, yeah. Volti scuri duri come roccia, misteri di una donna che c'è la spada nelle braccia, cadenza ipnotica, stregati da questa terra magica. Già scusa, guardo il cielo che trapuntato di stelle, sfonda la luna che ride, colora la pelle. Non vuol dare le notti passate tra canti sfrenati, tra fuochi fatati e poi tanti insediamenti fin da tempi, grandi combattenti vanno a segnare il fuoco di questa terra che a tutti fa sentire energia presa dai passati e venti. Scusa, alento, sulle lomare lo yento. Già scusa, alento, sulle lomare lo yento. Già scusa, alento, sulle lomare lo yento. Già scusa, alento, sulle lomare lo yento. No, muoio come una chicca che si attacca al tacco, ti faccio dire per batte capa sotto il tacco. Ecco paparezza, soffia brezza fina, fragranza salentina, sale in cima e ramo fino alla rima. E come arriva mi suona meglio di prima. Salento in ogni punto della cartina, salento stile di vita che sa vita e profuma genuina. Porto di ispirazione forte di un'emozione sopraffina. Sole, mare, vento, combinazione un'entrina. Segui la religione che non stai bene, più che tombo insieme. Sono il seme che tra la pianta e buone. Punta che salti sole, mare che salti sale, vento che braccia lume e sole. E genera una prova di parole. La playlist di stasera parte dal Salento, perché avete appena ascoltato gli Apre la Classe con il brano Aiuto, L'Usule, Lumare, Luientu, che la dice lunga sul loro paese. e special guest del brano Caparezza. Ma Apri la classe erano quelli che avevano fatto anche la versione di Io non posso. Ma pare restare... addirittura che questa playlist si fermi a Vasco, quindi diciamo... sta risalendo, si ferma in Abruzzo. Anche questo era il brano probabilmente errore. In Trentino non ce la facciamo ad arrivare stasera. Simpatici amici, da benvenuti. Da dove ci stanno ascoltando? Come? Frequenze FM. Vai. Allora 101 punto... no, la so, stasera, mi sono preparato, ora mi sono... ci coordiniamo. 101.2 in modulazione di frequenza e in streaming www.radiof.it e scaricando le nostre app su Android and Apple. Qual è l'app? Radio F. Ma lo sai da quando? Dal. Non dal 1976, un po' più da recente, ma il marchio è quello. È ok, quello. Poi abbiamo anche poi la pagina Facebook che sulla quale chiaramente dovete struncare il bottone I like. Struncare, struncare, dico per io ho capito, struncare anch'io. No, era un modo per dire che potete interagire con noi. Mettendo... quindi vi salutiamo tutti gli amici facebookiani. Sì, no, chi non hai niente, di niente, non hai niente, nessuno, non niente di pronto. Saluto degli amici però di Orbetello. Di Orbetello, anzi più precisamente di Portercole. Senti, che, di lì proprio, non Porto che sono lì. Ecco, no, abitano che lì. Ci facevi con l'elenco telefonico di Grosseto, sì, Livorno, tutta la Riviera. Tutti i giovedì sto a casa a scrivere. Quando era conoscere. Fuori, la settimana scorsa, preparato, ha sfogliato. Ho preparato, ma abbiamo anche una pagina YouTube, un canale YouTube. Canale YouTube dove già si trovano i primi video, quindi se ci volete vedere anche in faccia, da dal vivo. Visionare chiaramente solo dopo mezzanotte. Perché cioè, dopo Giovannona Coscialunga pare che sia uno dei canali più apprezzati su quella fascia oraria. Perché ci sei te. Ma di che cosa parleremo cioè, questa sera? Di che cosa parleremo? Fai tutto te. Ma più che parlare apprezzere. Guarda, io l'argomento di stasera, Sara, a me è particolarmente caro e lo voglio approfondire veramente in tutti i suoi aspetti, perché parla di speranza. Io, di speranza, ma sì, ma allora già c'è qualcuno che ride a questa. In fin dei conti parla di speranza e io mi sento coinvolto in questa cosa. Vorresti insomma entrare in questo? Sì, perché io diciamo nella mia condizione, che come sai benissimo non è delle migliori, da lungo tempo il mio analista cerca insomma di tirarmi fuori da questa situazione. Il fatto di avere degli ospiti che io ho qui davanti, guardarli nelle palle dell'occhio e sapere che loro forse ce la potrebbero aver fatta, mi fa pensare che forse anch'io potresti avere farlo. In senso una posizione e invece che forse qualcuno anche a me mi ama. E invece, caro Marzi, invece no. Però vabbè, ma la speranza è l'ultima. Ma lo sapremo solo alla morire. Fine della puntata. Facciamo dire però a Sara di chi parliamo, perché sennò. Sì, perché allora stasera continuiamo a farvi conoscere i personaggi di Foiano, quindi non più aneddoti, ma ci concentriamo proprio sulle persone di Foiano. E stasera parliamo di calcio amatoriale, ovviamente a Foiano, e in special modo dei Gold Boys di Renzino. E possiamo andare con la playlist. Reading some words on your body. Hide Me, questo è il titolo del brano appena ascoltato, e il duo si chiama We Love, è un progetto musicale di Piero Fragola e Giorgia Angiulli. Ecco perché mi piaceva, mi mancava solo la panna. Poi No, questo era un neologismo anglo-chianino, Hide Me. Spiega, sarebbe aiteme, però. Fantastico. Io chiedo scusa così in generale. Lui chiede aiuto, però. E saluto nessuno perché mi si è spento il computer. Vai, come non detto, pensaci tu. Dicevamo la sorella di uno dei nostri ospiti, sì. Così li presento subito. Sono tre calciatori, Stefano, Emiliano e Roberto. Ciao ragazzi. Due calciatori e un dirigente, giusto? Tre calciatori. Quella Giostrano lì. Potete avvicinarvi anche. Venite. C'è posto. Dovete avvicinarvi al microfono. Ciao a tutti. Ecco, bravo, vedi Roberto, ha già capito. Ancora più vicino, ancora. Sì. Adesso se non parlano non è colpa loro, è perché gli abbiamo messo un po' ansia, presumo, vero? Però, fantastico. Sì. Comunque loro sono tre rappresentanti della Gold Boys, questa squadra di calcio amatoriale. Di cui parleremo questa sera diffusamente. Ma prima di parlare di loro, che abbiamo già salutato, tra l'altro gli amici di Facebook hanno già visto una loro foto in divisa ufficiale. Devo dire a Caterina che i parenti non valgono, entro il secondo grado di parentela non valgono sui mi piace. Sì, su mi piace. Ecco. Sì, io sono disperato perché mi si è chiuso Facebook, quindi non faremo più niente. Vabbè, stasera. No, ma ora intanto che Facebook riparte, allora io direi di cominciare a introdurre la squadra prima di sentire i nostri ospiti di stasera, perché allora diciamo un po', facciamo un riassunto sui Gold Boys. Sì, sui Gold Boys e anche sulla storia del calcio amatoriale a Foiano, che ha una certa importanza, perché... Perché quando c'è il sentimento nel fare le cose, quindi il calcio amatoriale penso che sia l'espressione più alta dello sport. Sarà una lunga serata. Un'ora durerà una vita. Già lo vedo. Questo argomento l'ha proprio preso. Diciamo che è stato difficile trovare delle informazioni sul calcio amatoriale, perché seppur amato, e così almeno faccio contento Marzi, non ci sono molti documenti che ricordano qualcosa. E allora siamo andati. Una difficoltà di questo tipo l'abbiamo trovata, se non mi sbaglio, parlando del Fossombroni o del Medioevo della Val di Chiara. Avevamo attinto a fonti. Col Fossombroni pare che anche il Mostaccioli parlasse a suo tempo del caro Mostaccioli. Il calcio amatoriale in Val di Chiara. Beh, era il calcio fiorentino quasi. Addirittura. Allora, però volevo dire che il calcio amatoriale è importante, perché tante persone hanno ruotato attorno a questo sport. Sono indimenticabili alcuni match giocati al campo di sotto, che per chi è di Foiano capisce. Chi non è di Foiano? Perché c'è un campo sportivo, quello ufficiale, Sara, dove c'è anche l'erba, pensa. E poi c'è il campo. E quello è il Camp Nou, lì no. No, lì il Camp Nou. E poi c'è il campo di sotto, che proprio fisicamente si trova al di sotto di questo campo, dove non è mai cresciuta l'erba, nessuno di noi ci ha mai visto l'erba, però che è stato teatro di tante sfide importanti e anche interventi dei carabinieri e di ambulanze, ma questa è un'altra storia. Però diciamo, ci sono, io mi ricordo che un momento altissimo del calcio amatoriale foianese è stato il torneo dei Rioni, dove tutto il paese è stato coinvolto e anche travolto, perché lì veramente carabinieri e quant'altro. Però vabbè, di questo poi parleremo un momento di volta. Aggregazione sociale, forse sociale, aggregazione sociale, sociale. Che serata. Perché non abbiamo preso il ginjang stasera. Il ginjang ci manca. Stasera era chiuso il nostro rifocillatore ufficiale e ne stiamo subendo ma le conseguenze. Ma vuoi fare anche dei nomi, Enzo. Ma falli tu se ti riesci a leggere su questo foglio. Allora io vado a memoria. E posso dire che alcuni, senza chiaramente che chi non viene menzionato se ne abbia, ma tra l'altro chi fa i nomi si assume anche le responsabilità giuridiche. Miro, Mengrello, l'argentino che milita tuttora nei Gold Boys e dopo ne parleremo, il Vacca, Giancarlo, Vinicio che tra l'altro Vinicio che è il mister dei Gold Boys, che questa sera purtroppo non è potuto essere presente. E poi pare ci sia anche una personalità importante, Giancarlo, sì, che fin dal 1978, che non è il 1978 di Radio F, infatti non l'ho detto impostato come dovevo, ma pare che abbia una particolarità che i nostri ospiti tra poco ci diranno. Allora direi di fermarci qua e finalmente dopo andremo ad ascoltare delle voci normali e non più la tua, Marzi. Stasera a Piazzalta parliamo di sport. Giornata nuvolosa, 110 millibar, tempo adatto per bruciare le munizioni, zavorre da buttare a mare. C'è qualcuno che vedere prima, se non hai fame, se non hai rovina. Si vede solo quando tutto scatta, scatta, scatta basso. Solo quando tutto scatta, scatta, scatta, scatta basso. Qui nel muro c'è una crepa, e c'è una crepa che fa male. Non perché starla a riparare? Metti una mina, metti una mina, falla saltare mille tutto. Scatta, scatta, scatta basso. Meglio un botto sulla andare, scatta, scatta, scatta, scatta basso. Vinicio Capossela per questo terzo brano della scaletta di stasera con la canzone Scatà Scatà Scatafascio, che è tratta da un disco live del 1998 che era Live in Volvo. In Volvo? Anch'io. In Volvo. Anch'io. Ma Volvo 740. Sì, ma no. Oh, caro Marzi, caro finalmente Marzi, è il tuo momento per stare zitto. Se mi permette... No, dai. Se mi permettete, datemi un secondo di serietà. Vorrei iniziare la trasmissione e soprattutto sviscerare l'argomento con Roberto. Parliamo di sport, parliamo di calcio, calcio quindi, quello vero. E quindi te non sai quello che stai dicendo. Infatti, e forse sono il più titolato appunto a trattare l'argomento. Parliamo della squadra Gold Boys. Gold Boys. Che sono una costola, ma nemmeno costola, è una delle due squadre di Renzino. Renzino. Vai, ora tocca a te. Roberto, tu che sei un po' la parte, come dire, la parte seria della rappresentanza dei Gold Boys, vuoi dirci qualcosa su perché è nata la squadra, quando è nata, come è che si è sentita l'esigenza e soprattutto i colori sociali scelto? È una domanda che un po' tutti. Sta calmo. Ho detto tre cose serie in fila, ora basta. Sera fine. La sparate tutti. No, a te Roberto. L'idea di questo progetto è nata più o meno un anno fa, forse anche di più di un anno fa, però quando ci è venuta in mente l'idea di questo progetto si è pensato di dare spazio a quei giocatori che magari avevano meno spazio nella prima squadra di Renzino, e in primis, e in seguito l'idea era quella di coinvolgere magari certe persone che erano state nell'ambito della squadra di Renzino e di riportarle nel gruppo, insomma, no? Amici che magari si erano anche un po' persi di vista, e persone che comunque magari incrociavi per le vie a Fogliano, in piazza, oppure in circostanze che magari non, diversamente dal calcio, non sarebbero state prevedibili, ecco, tutto qua. Ma ti devo correggere sul discorso di prima del dirigente, perché io ce l'ho scritto sul cartellino. Però effettivamente sono dirigente, contabile, factotum, guardaline, a volte ho fatto anche il guardaline e a volte gioco anche. Meno male, e fa massaggi. Ma è vero. Però, È vero che Gold Boys sarebbe in realtà G, no, no, non sarebbe, è una G minuscola e Old scritto grande proprio a rappresentare l'età media dei giocatori. Bravo, bravo. Infatti, io, Enzo, è questo che a me mi dà fiducia, che anche oltre in età senile, dopo una certa età, a parte va dato, è anche un momento di aggregazione. Io potrei fare il presidente onorario a questo punto. Addirittura, sì, sì, sì, sì. Ma io sono mesi che mi sgolo all'UISP perché lo scrivono correttamente, ma non c'è verso. Non la capisco. La G minuscola, old maiuscolo, boy maiuscolo, la S minuscola. Minuscola, cioè. Giustamente, giustamente. Ma il ora chiediamo a c'è anche ci sono appunto anche Stefano e Emiliano, iniziamo a fare delle domande anche a loro. Risponde chi vuole. No, come sta andando il campionato? Guarda, questo è una delle la prossima, grazie. Vabbè, diciamo e nonostante che, tutto la squadra è ancora unita. No, vedi? Diciamo che non avete fatto la squadra per vincere il campionato. Decisamente no. Perché scusa Enzo, ora Roberto parlava di un progetto, no? Quindi non è una cosa fatta a caso. Il progetto è stato quello di fare una squadra che non per non vincere il campionato. E sta andando alla grande, quindi. Alla grandissima. Questo, ecco. Quindi una delle particolarità dei Gold Boys è proprio quella di riuscire a intraprendere un progetto e realizzarlo. Voi lavorate per obiettivi, scommetto. Sì, obiettivi, ecco, serali soprattutto. Ma infatti una delle prossime domande sarà questa, perché secondo me, conoscendo un po' di giocatori del Gold Boys, secondo me lo scopo principale non è il campionato, la vittoria del campionato, ma la coppa. Ma sì, la coppa, il prosciutto, la mortadella. Io infatti volevo parlare appunto delle scene, del post, del pre e post partita. E se vedo Roberto che dice, fa, c'è tanto da dire. Quante scene fate? I punti non li sappiamo, ma quante scene fate, per dire, in una stagione regolare? Di scene. Di scene facciamo una alla settimana, ecco, dopo gli allenamenti, che non è nemmeno tantissimo. Poi ne abbiamo fatte due sociali e poi facciamo tutti i sabati una bella merenda dopo la partita, ovviamente, anche prima, a volte anche prima, soprattutto chi non gioca. Mi sembra giusto, mi sembra giusto, perché voi siete comunque sempre 15-16 ogni sabato, giusto? Sì, anche più, anche di più. Sì, sì, sì. Per non parlare poi del guardaline, che insomma ce ne sono. Non ne parliamo del guardaline, per favore. Ciao Giova. No, perché sono degli elementi molto belli. Ma ne facciamo un po' alla volta, visto che siamo già a 4 minuti e mezzo, ci dice il nostro Simone. Quindi per il momento, ora preparatevi, perché le domande successive saranno molto più interessanti, ancora più interessanti. Il nostro Simone è andato a scovare un brano di Shiva Bhakta dal titolo Black Sunday, che è un brano tratto da un album del 2009. Pare abbia anche ricoperto il posto dopo che l'ha scoperto. Io stavo così bene comunque a Milano. Dopo 17 puntate comincio quasi a capire, ad apprezzare dici la musica, certo, la parte musicale, sì, di Piazzalta, soprattutto i finali delle canzoni. Allora, venendo, sono anche brevi, tra sì, l'altro, è vero, questo è una cosa positiva. Chi è il migliore? Ricordiamo che stiamo parlando con dei Gold illustrissimi Boys, rappresentanti della Gold Boys. Dei calciatori, ragazzi, ancora non abbiamo usato questo termine. È un motivo ci sarà. Calciatori. Infatti abbiamo esordito con avevamo evitato di proposito. Comunque, chi degli è? Sportivi. Bravo. Chi è il vostro bomber delle scene? Ovviamente, cioè chi è che si distingue di più a tavola? No, siamo seri. Diciamo chi è il capo il cannoniere della vostra squadra nel campionato regolare. Ma perché fai delle domande che sarebbero andate dopo e invece questa era prima? Ma perché lui deve fare così? Ma voi dite un nome a caso, non vi importa. Chi è? Il bomber. Il bomber. Mondo, Giramondi. Mondo, Marco. Vedi? Perché c'è tutto un mondo intorno, eh? Quanti gol ha fatto? Troppi. Se non erro sono 9. Quindi nove, cioè, quindi mi state dicendo che avete fatto almeno 9 gol. Abbiamo fatto 9 gol. Su quanti, no, ma su quante partite? Vabbè, ora non esageriamo. Diciamo ne mancano 4. Una curiosità, insomma, no, 22 giocate, 22 consegnati, la media di un gol a partita. Un gol a partita. Abbiamo, sì. Cioè, quindi oltre a Giramondi, basta che non mi chieda quelli subiti che poi no. Allora, facciamo così. Voi che siete qua avete fatto qualche gol? La prossima, grazie. Io sì, io in amichevole. Il primo gol dei Gold Boys. Con i pulcini. Io ne ho fatti due, ne ho fatti. Due? Sì, sì, due nella nostra porta però. Ah, due autoreti. Sì. Che momenti bellissimi. Stefano Giustini, figlio anche dell'allenatore, che è l'unico motivo per cui è convocato, vero? No, esatto. Mi viene un dubbio, Enzo, scusa, in che ruolo giocate? Io panchina quasi per tutta la partita. Quindi in offensivo, diciamo. Io ho comprato palloni, quindi io gioco. Okay. Roberto, abbiamo capito che si occupa della parte amministrativa. No, gioca anche in difesa probabilmente e la butta dentro. Bravo. Spesso e volentieri sui calcio d'angoli, però in quella sbagliata mi sembra di aver capito. No, vabbè, a parte pare che nella macchina, nella portiera laterale ci sia scritto subbuteo nel pullman della squadra. Ma a proposito, Sara, avevi da fare una domanda? Sì. Siccome non è proprio il mio argomento forte di stasera, avevamo notato che avete delle divise arancioni, bello arancione vivo, l'hanno visto anche i nostri amici su Facebook. Oltre 100 apprezzamenti su questa. Pensate, foto. Quindi pensate. Avete avuto successo, tra l'altro in pochissimo tempo, vero? È vero, Insino? È vero, è molto vero. Quindi, da dove viene la scelta del colore? Ma il colore è nato da un'esigenza. Siccome, essendo squadra nuova, avendo problemi di budget, avendo problemi di bilancio, abbiamo ovviamente non avevamo la possibilità di fare due completini, no? Oh, quindi ok, siamo andati parte romantica. E quindi abbiamo indagato un po' sulle altre squadre che sarebbero state nel nostro girone per vedere che colori avevano. E pur di non utilizzare un secondo completino, l'arancione non c'era. L'arancione nessuno. Forse ce l'aveva una squadra, ecco. Sì, forse. No, l'abbiamo beccata la squadra arancione. Che però gli avete fatto cambiare la maglietta a loro, voi probabilmente. No, ci siamo presentati alla maglietta. Meraviglia. E ecco, a questo punto ho una curiosità. Ringrazio Daniele, lo sponsor che ci ha fatto il ci completino. Mancherebbe altro. Poi vedo ne avete molti di sponsor. Insomma, sì. Vi siete dati da fare, avete siete seguiti. Di sponsor? 6, 7? Beh, voglio dire, nemmeno la Juve. Ecco, ma visto che di completi ne avete uno, è double fast, cioè invernale e estivo. Assolutamente sì. Come assolutamente materassi, sì. Lo giri, capito? Diventa estivo. Che bellezza. E con le scarpe come fate, ragazzi? Ma guarda quando questo colore ha cominciato a entrarci nell'occhio, c'è certo. Gente da noi che ha sicuramente comprato, vi ha pervaso. Scarpe arancioni, bellissimo. Scaldamuscoli arancioni, il phon arancione, lui, addirittura ho visto il phon. No, io c'ho il phon arancione, scusa. Il phon ce l'hanno in pochi, non da ribadire. Mi piace Stefano perché ora magari da casa non riescono, però parla poco ma dà delle perle tutte le volte, meraviglioso. Volevo farvi un'altra domanda prima di andare col prossimo brano. E io so che voi per decidere i numeri di maglia avete fatto una cosa bellissima. Favolosa. Avete fatto un'asta fra di voi. Abbiamo fatto un'asta. Raccontateci un po' quando vi siete ritrovati, quanto è durata l'asta, chi ha speso di più, chi ha speso di meno. Ecco, su questo argomento vorrei salutare Valerio, il nostro numero 10. Ecco, infatti, mi immagino. Vale, a proposito, dovresti portare le 40 euro. Per chi è che ha speso di più? Quindi, Valerio. Va bene, Marzia arriva dopo, con calma. Ditelo piano piano. Ha speso 40 euro per la numero 10. Ah, sì. Lo ripeto. Okay. No, veramente ha speso 40 euro per la numero 8, però voleva la 10. Cioè, quello che ha preso la 10 ha speso 10 euro, hanno fatto cambio. Ma meraviglioso. Voi invece che numeri avete, Stefano? Io ho preso l'ultimo che mi ha toccato al minimo. Con 2 euro l'ha presa. 5 euro? Diciamo sì, 10 euro, 15 che, euro. Che l'ho comprata all'asta giudiziaria. Rigorosamente il numero da panchina, quindi il 15. Bravo, è bellissimo. Emiliano? Io ho il 4 e il buon Stefano mi ha fatto pagare 20 euro. Che rialzava tutte le volte e poi mi ha detto: guarda, a me non mi interessa. Grazie. Roberto? Ma io ho il 5. C'ho. Beh, insomma, numeri seri loro, però è 4, 5. Mi viene un dubbio. Attenzione, il portiere che normalmente si distingue, di che colore ha la casacca? Questa è anche la grigia. Bravo, Marzio. E quanto l'ha pagata? Infatti le tue, cioè. Niente, l'ha proprio portata da casa questa, credo. Ecco, okay. Era un pigiama. No, siccome no, quelli erano già numeri assegnati, abbiamo fissato un forfè, ora non mi ricordo, devo riguardare tra i nostri tanti. C'è, insomma, ecco, comunque dite che organizzare un'asta di questo tipo si tirano su degli euri. Euri. Certo, plurale, no? Qualcosina. Certo, tutto fa, tutto quando, fa, quando hai fame, quando devi gestire una stagione intera. E qui ritorniamo alle scene. Ma andremo ad approfondire anche questo argomento. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself, cause I never did. I wasn't with her for just that very minute. It occurred to me the suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get up, but the thought was told before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive. Giving a damn, I said never. It was a land that never gave a damn, but I brought a Tricky featuring Martina Topley Bird per questo brano Black Steel, che è un brano di un album del 1995 che poi è stato riedito in Inghilterra nel 2009 in versione deluxe. Hai capito, Marzi? Tutto. Tutto, anche segnato. Ma fuori onda i nostri ospiti ci stavano raccontando. I saluti. Brava Sara, stammi dietro. I per saluti piacere. Perché perché ora veramente... che funziona Facebook, sì, che è tornato a funzionare. Allora, io saluto Lauretta e Paolo. Poi chi altro c'era? Poi c'era Francesco, Caterina che avevamo menzionato ma non avevamo salutato per bene, Alessio Moscadelli, il portiere della Gold Boys, e qui si è rispento tutto. Stasera seratona. E Paolo, che è un nuovo amico anche lui di Piazza Alta. Tra l'altro siamo arrivati a oltre a quasi 300 amici di Piazza Alta, ormai stiamo spopolando, quindi nonostante Marzi, ma stavamo dicendo cosa stavamo dicendo, Marzi? Di un fuori onda. Sì, esatto, di un fuori onda ci stavate raccontando un episodio, non ho capito bene però era sicuramente interessante. Chi è che ha il coraggio, vi mettete una mano davanti alla bocca così non vi si riconosce? No, dicevamo che c'è un nostro carissimo amico, un nostro bastardi a cui tutti vogliamo bene, a cui tutti vogliamo bene, soprattutto Enzo, perché certo, ha dei per motivi di cantiere. Esatto. Ciao Simone. Bravo, ciao Simone. Niente, Simone, da quando è entrato, diciamo che lui è entrato in maniera in ritardo in società perché per motivi vari. Diciamo che fino a che non è entrato lui, nessuno ha avuto problemi, stiramente. Lui è entrato come dirigente. Con funzione di guardalinee. Ok. E in ordine abbiamo avuto. Allora, il sottoscritto si è operato a un ginocchio, poverino. Poi un altro. Roberto si è strappato, e Stefano perché è già tutto rotto per cui non ha. Poi bisogno. Abbiamo avuto un'altra operazione a Gabriele, si è operato alla mano con placca annessa. Poi Wap si è rotto il piatto tibiale, il portiere si è rotto le costole, cioè, vabbè, salutiamo il portiere. Però oltre a questo anche diciamo, il nome del portiere, diciamo che l'influenza di salutiamo Simone, Marco che sabato ha dato tutto ma purtroppo è dovuto uscire, si è dato anche tre costole l'ha lasciate a Farneta. Bene, diciamo ecco. Che la sua influenza si è allargata anche al settore degli arbitri. Ecco, questo infatti stavate raccontando. Sì, lui Simone ci ha detto: ragazzi, state tranquilli, l'arbitro lo conosco, sono amico suo su Facebook. Perfetto, vai. Noi tranquillissimi, niente, per farla breve, noi giochiamo il sabato, la domenica l'arbitro ha avuto un mancamento. Una balurdia. No, voglio tranquillizzare i parenti dell'arbitro, che non mi ricordo il nome. L'arbitro sta bene. Sì, ma poi un saluto agli arbitri. Sì, l'ho fatto per 20 anni, l'arbitro. Appunto. Una categoria da difendere sempre, comunque, senza la quale non potremmo da coltivare, direi. Ma sì. Beh, comunque un saluto anche a Simone, che è evidente che stiamo scherzando, si tratta di pure casualità. Ecco, ma quello che ha detto testé Emiliano mi sembra anche un po' un appello, un grido ai nostri radioascoltatori, per chiunque volesse un po' partecipare, avvicinarsi ai Gold Boys, al calcio, ma nello specifico Gold Boys, evidentemente c'è molto bisogno di ricambio, di una panchina lunga, perché evidentemente il gioco si fa duro e quando è duro il gioco si fa duro, loro si rompono. Ecco. Beh, quindi infatti parliamo un attimo di, nello specifico, per esempio, a proposito degli infortuni di Stefano. Abbiamo solo un'ora e sono rimasti 20 minuti. Potresti fare un riassunto, diciamo, di quelli più importanti, degli infortuni importanti. Che cosa ti è rimasto di no, intatto? Niente. Diciamo, io dico solamente che se il dottore sapesse che ho rimesso le scarpette, io mi ricordo, si arrabbierebbe molto. Io infatti mi ricordo una sera ero a casa di Stefano, ci conosciamo, a fare un altro sport che non implicava sforzi fisici. Sì, qualcosa del genere. E lui disse, era ancora con tutta l'impalcatura sul ginocchio: non posso più giocare. Dico, Stefano, vabbè. Ma sono entrato nei Gold Boys. Non è che ho detto giocare. E infatti lo vedo qui con la tuta, va a giocare la domenica. Perché, diciamo, l'ultimo era un legamento. Ma chi si... Un legamento. Uno dei tanti. Ma uno solo, insomma. Nel senso... Quanti punti hai fatto? diciamo sopra i 300. Ecco, ma questo per non la, è uno scherzo, ma per la classifica avulsa questi 300 punti come vengono conteggiati? Perché diciamo fanno pari con la Coppa Disciplina. Ma anche questo è un argomento di cui parleremo a breve. Ho introdotto, scusa. No, insomma. hai fatto benissimo. Però lo lasciamo per dopo, perché qui dovrà intervenire Emiliano. Anche parte in causa. Intervenire in che senso? A piedi pari. A livello chirurgico. A piedi pari. E poi Roberto ci spiegherà che cosa vuol dire avere in squadra giocatori che magari fanno una domenica dentro e tre fuori, quattro. Ma insomma, vediamo. On so bad stuff I can't witness. I see the wolf packs congregating on the corners, hiding their cutbacks while attending to the mourners. Tie your hands behind our backs, wash your dalle nuove proposte scelte appositamente da Simone, abbiamo ascoltato di Nene Cerri Out of the Black, che è tratto da un disco uscito il 24 febbraio scorso. Quindi fresco fresco. Fresco fresco. 24 febbraio, che giorno era? È un giovedì. Ma sarà. Giovedì. Può darsi, sì, sicuramente. Sì, perché sì, era giovedì, sapete benissimo giovedì. Che a Foiano le cose importanti succedono sempre di giovedì. E infatti è strano che giochino di sabato i gol. Non sono convinti loro, però fidatevi, succedono di giovedì. Sul calendario Maya funzionava così. Quindi. Per esempio, ora tanto per dire la fisicità, la prestanza fisica, Emiliano ci ha appena confessato che stando a sedere da più di 40 minuti gli fanno male le gambe. Immagino quindi. Usuale. Ma perché? Per ma perché? È abituato a correre. Cioè, lui. Esatto. Lui non si ferma mai, è il Cabrini pensa lui dove è rimasto del gol. No, io vado per concetti astratti, ma che tutti possono capire. Comunque ancora vivo, quindi insomma potevi andare peggio. Lunga bravo, vita, lunga vita. Allora intanto diceteci la radio, questa sconosciuta, dateci qualche appuntamento quando giocate la prossima partita, così possiamo evitare Roberto. sabato alle ore 15 allo stadio di Renzino. Bah, ragazzi, che è anche bello, veramente uno degli impianti più belli che c'è a Foiano. Accidenti. Seriamente, complimenti a voi e a chi. Oppure Roberto, anche su Sky Go. Ma quindi ci consigliate a chi ci ascolta di venire, cioè a parte il calcio, il ritrovo sportivo di per sé, ci sono anche motivi per venire, per fare due risate, per stare insieme? No. Per vedervi giocare, per fare due risate, ha detto. Alle due risate di sicuro. E comunque il ritrovo è fondamentale, quello dopo la partita. Certo. Cioè, quanto dura una partita? 40 minuti a tempo? Sì. Anche qui vedi anche Milano. 5 minuti sono un po' 40, per scaldare le pietanze. No, stiamo facendo il conto: 3:40, 10 minuti di intervallo. Verso le 4:30 arriviamo, è pronta la merenda. Più o meno. Oh, allora c'era da salutare anche qualche altro dirigente, mi dicevi, Roberto. Presidente, che senza di lui ovviamente non avremmo potuto realizzare questo progetto. E poi il cofondatore della squadra, il Pippo, senza il quale questa squadra forse non andrebbe avanti, ecco. Addirittura. Sì, io mi permetto, voglio maledire in diretta il Pippo, perché dopo 8 anni mi ha richiamato sui campi di gioco. Maledetto. Ma il Pippo, tra l'altro, ha organizzato la cena sociale, stavate dicendo, sì, prima. Sì, diciamo che il Pippo è l'anima economica della squadra, cioè raccoglitore di fondi, tutto quanto. Infatti lo ringrazio, perché dopo aver fatto dopo aver fatto la cena sociale, dove ognuno di noi ha dato la quota, quella dovuta, il martedì dopo gli allenamenti noi ci ritroviamo sempre e facciamo la cena, dove paghiamo una cifra simbolica. Pippo ci ha detto: ragazzi, dai, martedì mangiamo gli avanzi della cena. Oh, vabbè. Siamo andati a cena e ovviamente ci ha fatto pagare perché è così che si portano avanti le esperienze, altrimenti i soldi non sono mai abbastanza. Siamo tutti in un clima di austerità, quindi è bene ricercare. Ma io abbiamo fatto un cenno prima a un personaggio che secondo me è un personaggio su cui bisogna un attimo soffermarsi, che da tanti anni tiene memoria, si segna quello che succede nel calcio amatoriale che riguarda Renzino. Mi dite qualche cosa di questo personaggio? Che è appunto il presidente, se non sbaglio. Giancarlo. Giancarlo penso che abbia, in forma cartacea ovviamente, rigorosamente cartacea, tutte le statistiche, giocatori, presenze, non so se anche minuti giocati per partita. Comunque partite, dico, sì, perché ho visto sul sito, è impressionante. Il sito, avete visto, www.calciorenzino.it. Roberto fa un cenno dicendo l'ho fatto io. Dillo. No, ma è bellissimo, vero Roberto? È bellissimo. No, ma da che anno? In che epoca? Cioè, ovviamente senza le informazioni di Giancarlo non sarebbe così, certo, pieno di pagine, di storia. Insomma, a proposito di storia che voi mi chiedevate, ecco, una fetta di storia sul sito. Ecco. Esatto, è vero. E apro una parentesi, tra l'altro, tra quelle statistiche troviamo anche per 2 o 3 anni capocannoniere il babbo del nostro tecnico, perché anche lui ha militato. Lidio, ce l'ho fatta a dirlo perché ho qualche problema a ricordare i nomi, ma tra l'altro i giocatori storici di che hanno giocato nel Renzino sono tantissimi. Nella lista delle presenze, nei marcatori e comunque nelle partite sono menzionati tutti, sì, quelli che sono passati, esatto, da lì. Cioè, quello che mi fa strano vedere nomi come Arrigo, Bignotti. Ci sono anche gallerie fotografiche degli anni vecchi. Vedi, cioè, gente come Arrigo Bignozzi, tanti Mauro, altri. Mauro Pasqualini, ecco, e poi vederci insieme Emiliano Corti quest'anno, insomma, che si crolla un po' tutto. Ma pare che, se non erro, Roberto, state preparando una nuova sezione con tutte le foto della prima comunione, del matrimonio, anche la sezione geriatrica. Ecco, cioè, ecco, a questo proposito mi lanci una domanda: quanti anni ha il giocatore più meno giovane, più in là con l'età, e quanti ne ha quello più giovane? Domando quello più giovane, rispondo io, ne ha 17. Ma vedi, però, allora una, sì, Gold Boys, ma con qualche punto. E che mansione ha? Mansione, che ruolo ha? Non gioca. No, gioca. Cioè, entra in campo prende e fa cazzatoni. La particolarità, devo dire, per rispetto di tutti, è che chiunque militi nei Gold Boys poi gioca. Ecco, questo è importante. Questo è fondamentale. Questo è lo spirito del progetto. Ma mi sembra che non l'ho menzionato. Beh, ma è giusto. Questo è giusto. E invece il meno giovane. è Claudio, l'argentino. Bra- un altro mito del calcio foianese. 54? 69? 54 anni. Sai, quando mi ha portato la foto per il cartellino, me l'ha portata in bianco e nero. Non le stampavano ancora colori. Meraviglia. E anche perché la capigliatura ormai è in bianco e nero, diciamo, se non ricordo male. Mi sembra sì di averlo visto grigio, eh? Ciao. Però, Claudio, ecco, infatti un saluto. Lui grande attaccante, giusto? Lui, a parte gli scherzi, grandissimo giocatore. No, beh, ma questo anche ora, sì. Per dire, a 54 anni, se sei capace, capito Marzi, non è come Emiliano che anche questa era per la tua speranza, sempre per quella cosa. Già, cui siamo partiti, la sua speranza. C'hai ancora 10 anni di carriera abbondante. Non so di che cosa stiamo parlando. Perché no? Io sono più un teorico, e avrei anche un'altra domanda che ora però la mia senilità mi ha fatto allora facciamo così, stendiamo un velo pietoso, andiamo con un altro brano tu e pensaci poi... però Marzia, ma tanto non se la ricordo, non se la ricordo, ma ormai è tardi. Siamo davvero in bellezza, perché quello che abbiamo appena ascoltato era il primo storico singolo dei Queen ed era Keep Yourself Alive, e correva l'anno... non lo saprà mai. Scusa. 1973. Hai quasi detto l'inglese anche nel 1900. Freddy always in my heart, yeah, from yeah. Ma torniamo alla Chiana. Vogliamo ringraziare, non l'abbiamo mai fatto, anche il nostro direttore Massimo, che sta facendo le riprese ormai da qualche settimana e che tutti possono rivedere nel nostro canale YouTube, che in questo momento salutiamo. Paolo, ciao simpatico amico. Allora, questo è l'ultimo intervento. Chi deve dire qualcosa parli adesso, taccia per sempre. Nel senso che ricordiamo alcuni dei membri della società Gold Boys, che non può essere... Sì, è preferibile se interviene il direttore, ma comunque va fatto assolutamente un ringraziamento soprattutto al cuoco della squadra. Bravo Stefano, le cose importanti. Il nostro difensore di punta, Gabriele Boscagli. E lui, cuoco e difensore? Che è stato una vittima del Giovannelli. Involontaria chiaramente. Ovviamente, ma tutte involontarie, ci mancherebbe altro. No. Per non parlare di Valerio, sì, che non solo ha fornito grosse liquidità alla squadra con l'acquisto della maglia e bottiglioni di vino. E bottiglioni di vino. Vedi le cose importanti della società. Roberto, devi aggiungere qua. Ah no, Stefano, io volevi aggiungere solo una cosa. Volevo ringraziare il mister, non è una leccata, però ma tanto non giocherai uguale. No, no, non è per quello, perché ci sopporta. Questo ci credo. Però si dice sempre così, eh. No, no, è vero, è vero. Ti assicuro che Vinicio ci sopporta, conoscendolo lui. Cioè, fa uno sforzo enorme a... Scusa Emiliano se ti interrompo un secondo, ma mi hai dato il lancio per una domanda intelligente. Beh, sì. Il mister Giustini, musica, che stasera sappiamo che non è presente tra noi, vorrei sapere se così è proprio non è potuto venire, lasciata fare le sue. Vorrei sapere se sarà riconfermato per la prossima stagione. Devi chiederlo alla società. E quindi Qui abbiamo tu sei troppo, ecco, ma cioè, voi sareste... Io ti dico che io lo seguirò dovunque egli andrà. Diciamo, il primo progetto per il prossimo anno è allungare parecchio la panchina, cioè fisicamente. Fisicamente, perché qualcuno sta in piedi, Esatto, c'è troppi pochi posti. Roberto. No, siamo 28 tesserati, tra dirigenti, innominabili, allenatori e tu. Che spettacolo. Ma ora veniamo. Anzi, li ringrazio tutti. Ecco, li ringrazio giusto, veramente immagino. Tutti perché... Diciamo che la panchina è molto ambita. Sì, uno io vede la convocazione. Ho una curiosità. Parlando di sport giocato, c'è un tarlo che mi rode. Vorrei sapere chi è che ha il più alto numero di ammunizioni ed espulsioni. Ecco. Ringrazio tutti, arrivederci. No. Qui devi rispondere. Di espulsioni? Sì. Allora, ufficiali? Sì. Quelle con il cartellino 4. Rosso. Allora, quelle col cartellino rosso in campo, io 3. Emiliano, 3. Io 3. Su 4. Quelle su segnate partite dall'arbitro siamo io, WAP. Ciao WAP. Basta? Sì. Che sarebbero quante? Cioè, no, voglio dire una cosa, a parte gli scherzi, siamo secondi in Coppa Disciplina. Nonostante te. Nonostante me. Ma è una classifica avulsa? No, siamo cioè, ora lui dice avulsa, ma non sa che vuol dire. Lui lo dice per far vedere che parla di calcio, ma non Pippo lo sa. Pippo ha preso 85 ammonizioni, non è neanche diffidato. Pippo, l'anima della squadra, è il peggiore. In assoluto. Poi succede che, però, dal tragitto dal campo allo spogliatoio, qualche ammonizione si dissolva. Mi sembra di capire. No, ma cosa ti viene in mente? No, ma scusa, per una bontà comunque, divina, se mi permetti, ma di quello. Ma quando mai? Il noi calcio, assolutamente. Ma non mi calcio, scusa, Enzo, il calcio amatoriale a Renzi. Ascolta, io c'ho la è anche un momento di tolleranza, nel senso che se anche fa il fallo da ammonizione, da espulsione, non sempre viene eseguito. L'ammonizione non è così. Viene eseguito, e come? Va bene, Sara, riprendi le redini te di questa situazione. Sì. Dobbiamo salutare perché nostro malgrado è finita. Sono è finita. Sì, e allora l'appuntamento è per giovedì prossimo con Piazza Alta, ma prima ancora per sabato, per vedere i Gold Boys giocare a Renzino alle 15. Alle 15. Perfetto. Non mancheremo nessuno. Da 1976. No, che cosa? Sì. Radio F. Ringraziamo Stefano, Emiliano e Roberto. Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Sarà ciao. Bellissimo riavervi l'anno prossimo a parlare della nuova società con cui andrete a giocare tutti, no? Chi ci arriva? Ma se arrivasse Mourinho. Sì. Sa due cose del calcio, l'ha detto. Avulsa e Mourinho. Non c'è altro. No, a parte scherzi. Grazie ancora a tutti. Sì, davvero. Ci risentiamo. Ci risentiamo giovedì, però i nostri ascoltatori ci possono risentire domattina, tarda mattinata, con calma, sulla nostra pagina Facebook, dove trovate il podcast di questa 17ª puntata di Piazza Alta. Dal 1976. Un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla conduzione tecnica Simone.